che ti sento. Ok. Ora passo a sentire volte e ora. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Non so se può, se non devo fare ciò, però. Che cazzo trovi? Non ho visto la conosca. Lo metto con me, la vieni tu a vedere, a farlo tu a vedere se quindi. Allora, qual era quello che hai fatto con Filetto? Sentirò quello che avevo dentro. È cambiato solo l'atto mare Porto Torres, è a 170 adesso. Quello quanto era più alto? Cosa? Prima era 150 quello. L'atto mare Porto Torres. No, prima vuol dire a 210, adesso è a 170. Aspetta, giusto, quello che era 210 adesso è 170. Sì, però il lato Trentino è 130. Oh, riempitemi quella situazione, abbiamo detto, lato mare Porto Torres 170. Sì, non è molto niente. Ma più così non... E quindi... Vogliamo. Ancora? Ancora? Ancora? Sta andando? Ora porto la... Siamo a treno le... Siamo in tutto tirato. Ok. Ok, devo tirare, stiamo tirando, Trentino Mare. Appel fréquence pour un contrôle radio, 73. Qui c'est? Appel fréquence pour un contrôle radio, 73. Qui est? Avanti. Attenta cuffetta. Luca Maracocco. Luca posami in bacca. Luca Maglio. Eliu. Luca Ginco. Ciao. Chi? E beh, fatele le prove. No, domani. Domani, Lu, perché... Domani, posto il trappano. Tutto lavoro. Eliu. Io vado a mandare a fare una cappa vicino a casa, 5 minuti. Collega lì, fare un buco nella presa, collega lì il filo, capito? E poi scendo qua e faccio tutto il lavoro. Si cazzo, non c'è niente collegato. No, c'ho il tifo, ma c'ho stazionaria a fondo scala. Praticamente vado ad attaccare il filo così diretto, senza fusibile. Cacciarola. Cacciarola. Comunque, a ricevo le riceve bene. Al 10 sono. Però mi ci sale il lago delle stazionarie a fondo scala. Minchia. Infatti, no, non lo uso neanche, oh. Attento, Maglio. Maglio. Tocca a Maracocco. Attento, Maglio. Maglio. Mickey. Ciao Mari! Non mi tocca, ciao Mari! Oui, bonjour.